Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1844. Maltempo, alluvione a Firenze, il Granduca ospita gli sfollati a Palazzo Pitti. La storia di due fratelli, Emilio ed Attilio Bandiera, commuove i patrioti italiani. Anche il Regno di Sardegna si decide, partono i lavori della ferrovia tra Torino e Genova. Un nuovo metodo per comunicare, in un attimo, un messaggio arriva da Washington a Baltimora. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura l'alluvione che ha colpito la città di Firenze e i suoi dintorni. L'Arno è esondato e ha invaso il centro della città, arrivando ai primi piani delle case. Era molto tempo che non si vedeva qualcosa di questo genere. L'ultima calamità di questo tipo era avvenuta nel 1557. Il Granduca Leopoldo II, rientrato dal fine settimana di vacanza, ha aperto le porte di Palazzo Pitti agli sfollati. E ora la vicenda dei due patriotti che arriva dalla Calabria. Si chiamavano Attilio ed Emilio Bandiera e con i loro 7 compagni saranno ricordati a lungo. Lo spirito patriottico che li animava ha colpito anche i soldati che nel vallone di Rovito, nei pressi di Cosenza, li hanno fucilati. Malamente, si dice. L'emozione ha tradito i militari delle due Sicilie, costretti a più raffiche per finire i malcapitati. I due fratelli Bandiera, di nobile famiglia veneziana, ufficiali della Marina Austriaca, figli di una baronessa e di un contrammiraglio, nutrivano da tempo idee patriottiche. Fondatori dell'Esperia, una società di ispirazione mazziniana, avevano disertato, rifugiandosi a Corfù. Raggiunti da una serie di compagni, insieme a un altro ufficiale veneziano, Domenico Moro, hanno ipotizzato prima un'azione in Maremma, ripiegando poi su Cosenza, dove a marzo era scoppiato un moto. Ma il moto è stato presto represso. Ignari, il 13 giugno Emilio ed Attilio Bandiera sono partiti insieme a 17 compagni, al brigante calabrese Giuseppe Meluso e al corso Pietro Bocchecciampe. Il 16 giugno sono sbarcati alla foce del fiume Neto, apprendendo della fine del moto. Deciso di proseguire comunque, sono stati traditi da Bocchecciampe e tutti catturati alle porte di San Giovanni in Fiore sulla Sila. Sono stati fucilati in 9 il giorno 25 luglio. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Altre 20 persone intanto sono state giustiziate nello Stato Pontificio per i moti dell'anno scorso a Modena, Bologna e Savigno. Dopo qualche titubanza, anche il Regno di Sardegna si è deciso. Il re Savoia Carlo Alberto vuole la ferrovia tra Torino e Genova e ha dato disposizioni che i lavori inizino. Il progetto è ambizioso perché prevede, tra l'altro, lo scavo di un'imponente galleria che dovrebbe misurare 3,5 km. E ora un documento sonoro straordinario che ci arriva dagli Stati Uniti. Sentiamo. Questo è stato il primo messaggio inviato a grande distanza tra due città, ossia Washington e Baltimora, appunto in America. Vi parliamo di messaggio perché questi suoni, che a voi appariranno indistinti, sono in realtà un vero e proprio codice per comunicare a distanza tramite dei fili e un apparecchio che si chiama telegrafo. Un alfabeto ideato proprio da un inventore americano, Samuel Morse, e che ha preso il suo nome. Il testo di questo primo messaggio, trasmesso tra le due città, è un passo biblico in inglese, What hath God wrought, e cioè cosa ha fatto Dio. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano, visitate il nostro blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Domani saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino con una puntata speciale previsto pubblico. Vi aspettiamo alle 12 nel padiglione numero 2. Dettagli e informazioni anche sulla nostra pagina Facebook. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.